Bob Jakin, che di rado tornava dai suoi giri senza far visita a Tom e Maggie, l'aveva atteso una sera sul ponte mentre rincasava da St. Oaks per avere con lui un piccolo colloquio privato. Si prendeva la libertà di domandare se Mr. Tom non aveva mai pensato di guadagnare del denaro facendo un po' di commercio improprio. Commercio? E come? Tom avrebbe voluto saperlo, diamine, mandando un piccolo carico nei porti stranieri, perché Bob aveva un amico particolare che gli aveva offerto di combinargli un affaretto del genere con le mercanzie di Laceham e sarebbe stato lieto di servire Mr. Tom sulla stessa base. Tom fu subito interessato e richiese ampie spiegazioni, meravigliandosi di non avere mai pensato prima ad una simile impresa. La prospettiva di una speculazione che avrebbe potuto cambiare il lento processo dell'addizione in quello della moltiplicazione lo tentava a tal segno che subito risolse di farne parola al babbo e di ottenere il permesso di prendere un po' dei risparmi del bossolo di stagno per acquistare un piccolo carico. Avrebbe preferito di non consultare il babbo, ma aveva versato appena allora il suo ultimo trimestre nel bossolo di stagno e non possedeva altre risorse. Tutti i risparmi erano là perché Tulliver non avrebbe mai consentito di mettere il denaro a frutto, nel timore di perderlo. Da quando aveva speculato sull'acquisto di certo grano rimettendoci, non era tranquillo se non teneva il denaro sotto gli occhi. Tom abbordò l'argomento con cautela quella sera stessa mentre stava seduto col padre accanto al fuoco. E Mr. Tulliver ascoltò, protendendosi sulla sua poltrona e fissando sul viso di Tom uno sguardo scettico. Il suo primo impulso fu di opporre un reciso rifiuto, ma le volontà di Tom gli incutevano un certo rispetto e da quando aveva avuto la sensazione d'essere un padre sfortunato, aveva perduto alquanto del suo antico assolutismo e fermo voler essere lui il padrone. Tolse di tasca la chiave dello studio, estrasse quella del grande scrigno e portò giù il bossolo di stagno. Lentamente, come se tentasse di rinviare il momento di una separazione dolorosa. Poi si sedette di fronte alla tavola e aprì il bossolo con quella piccola chiave che si palpava nel taschino del panciotto durante tutti i momenti di libertà. Eccoli là, i biglietti di banca sgualciti e le lucenti sovrane, li contò sulla tavola. Solo 116 sterline in 2 anni, dopo tante privazioni. Di quanto hai bisogno, allora? Disse parlando come se le parole gli bruciassero le labbra. E supposto che io cominciassi con 36 sterline, babbo? Disse Tom. Mr. Tulliver separò questa somma d'arresto e posandovi sopra la mano disse: E quanto posso mettere da parte col mio stipendio in un anno? Sì, babbo, è un lavoro così lento quello di economizzare dal poco che riceviamo, ma in questa maniera potremo raddoppiare i nostri risparmi. Figlio mio, disse il padre, continuando a tenere la mano sul denaro. Ma tu puoi perderlo, perdere un anno della mia vita e non me ne rimangono più tanti. Tom stava zitto. E tu sai che non ho voluto fare un riparto con le prime 100 perché desideravo di vedermele tutte in un gruzzolo e finché le vedo sono sicuro che ci sono. Se vuoi affidarti alla fortuna, essa è certo contro di me. Lo tentava a tal segno che subito risolse di farne parola al babbo e di ottenere il permesso di prendere un po' dei risparmi del bossolo di stagno per acquistare un piccolo carico. Avrebbe preferito di non consultare il babbo, ma aveva versato appena allora il suo ultimo trimestre nel bossolo di stagno e non possedeva altre risorse. Tutti i risparmi erano là perché Tulliver non avrebbe mai consentito di mettere il denaro a frutto, nel timore di perderlo. Da quando aveva speculato sull'acquisto di certo grano rimettendoci, non era tranquillo se non teneva il denaro sotto gli occhi. Tom abbordò l'argomento con cautela quella sera stessa mentre stava seduto col padre accanto al fuoco. E Mr. Tulliver ascoltò, protendendosi sulla sua poltrona e fissando sul viso di Tom uno sguardo scettico. Il suo primo impulso fu di opporre un reciso rifiuto, ma le volontà di Tom gli incutevano un certo rispetto e da quando aveva avuto la sensazione d'essere un padre sfortunato, aveva perduto alquanto del suo antico assolutismo e fermo voler essere lui il padrone. Tolse di tasca la chiave dello studio, estrasse quella del grande scrigno e portò giù il bossolo di stagno. Lentamente, come se tentasse di rinviare il momento di una separazione dolorosa. Poi si sedette di fronte alla tavola e aprì il bossolo con quella piccola chiave che si palpava nel taschino del panciotto durante tutti i momenti di libertà. Eccoli là, i biglietti di banca sgualciti e le lucenti sovrane, li contò sulla tavola. Solo 116 sterline in 2 anni, dopo tante privazioni. «Di quanto hai bisogno, allora?» disse parlando come se le parole gli bruciassero le labbra. «E supposto che io cominciassi con 36 sterline, babbo?» disse Tom. Mr. Tulliver separò questa somma d'arresto e posandovi sopra la mano disse: «E quanto posso mettere da parte col mio stipendio in un anno?» «Sì, babbo, è un lavoro così lento quello di economizzare dal poco che riceviamo, ma in questa maniera potremo raddoppiare i nostri risparmi.» «Figlio mio», disse il padre, continuando a tenere la mano sul denaro, «ma tu puoi perderlo, perdere un anno della mia vita e non me ne rimangono più tanti.» Tom stava zitto. «E tu sai che non ho voluto fare un riparto con le prime 100 perché desideravo di vedermele tutte in un gruzzolo e finché le vedo sono sicuro che ci sono. Se vuoi affidarti alla fortuna, essa è certo contro di me. È il demonio che ha la fortuna nelle mani e se perdo un'annata non la ritroverò mai più. La notte mi sorprenderà.» La voce di Mr. Tulliver tremava e Tom rimase in silenzio per qualche minuto prima di dire: «Oh, vi rinunzierò, babbo, visto che tu sei così nettamente contrario.» Ma non volendo abbandonare del tutto il suo progetto, si decise a chiedere allo zio Glegg di rischiare 20 sterline promettendogli il 5% sui profitti. Era veramente una richiesta molto piccola, sicché all'indomani, quando Bob venne allo scalo per conoscere la decisione, Tom gli propose di andare insieme da suo zio Glegg per intavolare l'affare, perché la sua diffidente fierezza lo impacciava, gli faceva sentire che lo scilinguagnolo di Bob l'avrebbe tolto da qualche imbarazzo. Mr. Glegg, nella piacevole ora delle 4 pomeridiane di una calda giornata di agosto, stava naturalmente contando i frutti della sua spalliera, per assicurarsi che la somma totale non fosse variata del giorno precedente. Ed ecco entrare Tom con tal compagnia che a Mr. Glegg parve molto discutibile. Un uomo con un fagotto sulle spalle, perché Bob era equipaggiato per un nuovo viaggio, e un mostruoso terrier tigrato che camminava con un pigro barcollamento e guardava di sottecchi con una sgarbata indifferenza, la quale, dopo tutto, poteva anche mascherare i propositi più offensivi. Gli occhiali di Mr. Glegg, che lo avevano assistito nel contare i frutti, conferivano un'allarmante evidenza a questi particolari sospetti. «Ehi, ehi, lo tenete indietro quel cane, sì o no?» gridò, sradicando un piolo dello steccato e brandendolo dinanzi a sé come uno scudo, quando i visitatori furono a 3 passi da lui. «Fila via, Mumps!» disse Bob, allungandogli un calcio. «Oh, è tranquillo come un agnello, signore!» Osservazione che Mumps rinforzò di un sordo brontolio mentre si ritirava dietro le gambe del padrone. «Ebbene, che significa tutto questo, Tom?» disse Mr. Glegg. «Mi portate informazioni sulle canaglie che hanno tagliato i miei alberi?» Se Bob fosse venuto con la veste dell'informatore, Mr. Glegg avrebbe veduto qualche ragione di tollerare una tal quale irregolarità. «No, signore», disse Tom. «Sono venuto per parlarvi di certi miei piccoli affari personali.» «Ah, bene, ma che ha da fare con tutto ciò quel cane?» disse il vecchio gentiluomo rifacendosi mite. «È il mio cane, signore», disse Bob, sempre pronto. «E sono io che ho dato a Mr. Tom l'idea di questo piccolo affare, perché Mr. Tom è un amico mio fin da quando era un piccolo monello. La prima cosa che ho fatto è stata di spaventare i passeri per il vecchio padrone. E se c'è un po' di fortuna che giri dalla mia, penso sempre se posso procurare qualche vantaggio a Mr. Tom. E sarebbe proprio uno scandalo schifoso se quando gli si presenta la possibilità di fare un po' di soldi, mandando fuori delle mercanzie, un 10 o 12% pulito, una volta pagato il nolo e la commissione, non potesse approfittare dell'occasione per mancanza di quattrini. Quando poi si tratta delle mercanzie di Laceham, santo Dio, roba fatta apposta per la gente che vuole mandar fuori un piccolo carico, leggere, e che non tengono posto. Potete imballarne per 20 sterline che non si vede nemmeno il pacco. E sono fabbricate che piacciono agli scemi, sicché faccio conto che difficilmente mancherà l'acquirente. E io ho da andare a Laceham e comprerò le mercanzie per Mr. Tom mentre compro quelle per me. E c'è il commissario di un piccolo bastimento che è disposto a trasportarle. Lo conosco personalmente, ha una testa quadra e ha famiglia qui in città. Salt si chiama, è un tipo sveglio per giunta. E se non volete credere a me, vi posso condurre da lui. Zio Glegg rimaneva a bocca aperta dallo stupore per questa loquela così disinvolta, a cui il suo comprendonio riusciva appena a tener dietro. Guardò Bob, prima al di sopra delle lenti, poi attraverso, poi di nuovo al di sopra, mentre Tom, dubitando delle impressioni di suo zio, cominciava a desiderare di non aver condotto quel singolare megafono. Il discorso di Bob gli pareva meno opportuno adesso che, oltre a lui, c'era qualcun altro ad ascoltarlo. «Mi sembrate un tipo che sa il fatto suo?» disse alla fine Mr. Glegg. «Eh, signore, voi dite il vero», rispose Bob, inclinando il capo da un lato. «Credo che la mia testa al di dentro sia tutta formicolante come un vecchio formaggio, perché son così pieno di progetti che uno picchia sull'altro. Se non avessi Mumps per sfogarmi, diventerei troppo carico sul cucuzzolo e capitombolerei di schianto. Credo che dipenda dal fatto che non sono mai andato molto a scuola. È questo che rinfaccio alla mia vecchia. Le dico, tu dovevi mandarmi a scuola un po' di più, le dico, e allora avrei potuto leggere nei libri che è un piacere e conservarmi la testa fredda e vuota. Per Diana se la passa benone ora, la mia vecchia. Mangia pasticci al forno, in tingoli, tutte le volte che ne ha voglia, perché io ammucchio tanti quattrini che dovrei avere una moglie per spenderli. Ma è seccante una moglie e a Mumps potrebbe non andare a fagiolo. Zio Glegg, che da quando si era ritirato dagli affari si considerava un uomo spassoso, cominciava a trovare Bob divertente, ma aveva ancora da esprimere una disapprovazione per cui serbava la faccia seria. «Ah!» disse. Io credo che non sappiate come spendere i vostri soldi, altrimenti non terreste quel cagnone che deve mangiare quanto due cristiani. Che vergogna, che vergogna! Ma parlava con più tristezza che collera e soggiunse prontamente: Beh, via, parliamo un po' di questo affare, Tom. Avete bisogno, mi pare, di una piccola somma da mettere in una speculazione, giusto? Ma dove sono tutti i vostri quattrini? Non li avrete mica spesi tutti, eh? No, signore, disse Tom arrossendo, ma mio padre non ha voglia di rischiarli e a me non piace di far pressione. Se potessi trovare 20 o 30 sterline per cominciare, corrisponderei il 5% e poi arriverei gradatamente a farmi un piccolo capitale per tirare avanti senza prestiti. Disse Mr. Glegg in tono di approvazione, non è una cattiva idea. E non dico che non sarei il vostro uomo, ma sarà bene che io veda questo Salt di cui parlate. E poi c'è qui questo vostro amico che si offre di comprare le mercanzie per conto vostro. Avete per caso qualcuno che garantisca per voi nel caso che vi si metta il denaro in mano? Soggiunse il vecchio e prudente gentiluomo guardando Bob al di sopra delle lenti. Non credo che sia necessario, zio, fece Tom. Voglio dire, quantomeno che per me non sarebbe necessario, dato che conosco bene Bob, ma forse sarebbe equo per voi avere qualche garanzia. Voi avrete la vostra percentuale sull'acquisto, suppongo, disse Mr. Glegg guardando Bob. No, signore, disse Bob alquanto sdegnato, non ho mai offerto di prendere una mela per Mr. Tom con lo scopo di morderne io un pezzetto. Per far dei trucchi alla gente voglio che siano più divertenti. Beh, ma sarebbe più che giusto che prendeste una piccola percentuale, disse Mr. Glegg. Mi persuadano poco i negozi in cui la gente fa le cose per nulla, non ci vedo mai chiaro. Bene, allora, disse Bob, che con la sua finezza capì qual era il sottinteso. Vi dirò quello che io ci guadagno, che è poi alla fin fine da avere in tasca del denaro liquido. Prendo un'area più importante, facendo degli acquisti più in grande. Ecco qual è il mio scopo. Io sono un furbacchione, sono. Mr. Glegg? Mr. Glegg! Disse una voce severa dalla finestra aperta del salotto. Volete venire a prendere il tè o rimarrete lì a chiacchierare con un merciaiuolo finché sarete assassinato in pieno giorno? Assassinato? Disse Mr. Glegg. Di che sta parlando, moglie? C'è qui vostro nipote Tom che è venuto per un piccolo affare. Assassinato, sì. Non è molto che un merciaiuolo ha ammazzato una giovane donna in un posto solitario. Le ha rubato il ditale e poi ha gettato il cadavere dentro un fosso. No, no, no, disse Mr. Glegg conciliante. Voi state pensando a quell'uomo senza gambe che girava su una carretta tirata da un cane? Bene, fa lo stesso, Mr. Glegg, ma voi avete sempre la mania di contraddirmi. E se mio nipote venuto per affari sarebbe stato più a posto che l'aveste fatto entrare in casa, in modo che sua zia sapesse di che si tratta, invece di stare a bisbigliare negli angoli in quella maniera ipocrita, come dei cospiratori. Bene, bene, disse Mr. Glegg, adesso veniamo dentro. È inutile che stiate lì, disse la signora Bob, con voce forte proporzionata alla distanza morale e non già a quella materiale che li separava. Non abbiamo bisogno di niente, non so che farmene dei merciaiuoli. E ricordatevi di chiudere la porta, uscendo. Un momento, non tanta furia, disse Mr. Glegg. Non ho ancora finito con questo giovanotto. Venite dentro, Tom, venite dentro, soggiunse entrando per la porta a finestra. Mr. Glegg, disse Mrs. Glegg con voce fatale, se volete lasciar venire quell'uomo col suo cane qui, sul mio tappeto, proprio sotto i miei occhi, siate tanto gentile da farmelo sapere. Una moglie avrà bene il diritto di domandare queste cose, spero. Oh, non vi inquietate, madama, disse Bob toccandosi il cappello. Aveva capito alla prima che Mrs. Glegg era un pezzo di selvaggina degna che le si corresse addosso ed era impaziente di cominciare la battuta. Noi rimarremo qui fuori sulla ghiaia, Mumps e io. Mumps li conosce i suoi polli. Li conosce. Potrei aizzarlo per un'ora di fila prima che si avventasse contro una vera gentildonna come voi. È straordinario come capisce quali sono le signore di buone maniere. E ha una simpatia speciale per quelle di bell'aspetto. Accidenti! Soggiunse Bob, buttando il suo fagotto sulla ghiaia. È mille volte peccato che una signora come voi non voglia trattare con un merciaiuolo, invece di andare in quei negozi di novità dove c'è mezza dozzina di elegantoni, coi menti impiccati sopra un collettone insaldato, che paiono delle bottiglie coi turaccioli a decorazioni e debbono cavarsi il pranzo da un pezzetto di tela di cotone. Si capisce che vi facciano pagare 3 volte di più di un merciaiuolo, che è il mezzo più naturale di comperare la mercanzia. Non paga fitto, non è costretto a strangolarsi perché gli schizzino fuori le bugie, ne abbia o non ne abbia voglia. Ma santo Dio, voi, signora, lo sapete più di me, quel che è meglio, voi sapete guardarli per trasparenza, quei bottegai, lo giurerei. Sì, lo credo bene che lo so, e i merciaiuoli non sono meno che i bottegai, osservò Mrs. Glegg, volendo sottintendere che le adulazioni di Bob non avevano prodotto su di lei alcun effetto. Mentre suo marito, ritto dietro di lei con le mani in tasca e le gambe larghe, strizzava l'occhio e sorrideva con maritale malizia alla probabilità che la moglie venisse raggirata. Sicuramente, signora, disse Bob. Sfido, voi dovete aver trattato con tanti merciaiuoli da non più finire quando eravate signorina, prima che il padrone qui avesse la fortuna di posare gli occhi su di voi. Io lo so dove stavate, io. Ho veduto la casa un sacco di volte, proprio sotto Squire Daly. Un palazzo di pietra con dei giardini. Ah, potete dirlo, rispose Mrs. Glegg versando il tè. Sapete dunque qualcosa della mia famiglia? Sareste parente con quel merciaiuolo dall'occhio guercio che portava sempre della tela di Irlanda? Vedete un po', disse Bob evasivo. Sapevo ben io che se dovevate ricordarvi dei migliori contratti fatti in vita vostra, quelli erano proprio quei merciaiuoli. Ebbene, vedete, anche un merciaiuolo guercio è meglio di un bottegaio che guarda dritto. Accidenti, l'avessi avuta io la fortuna di andare a quel palazzo di pietra con questo mio fardello che è qui. E si curvava, picchiando espressivamente col pugno il suo fagotto. E se quelle graziose signorine fossero state tutte là, sui gradini di pietra, sarebbe stato qualche cosa di bello di aprire il fagotto, sarebbe stato. Il merciaiuolo ormai non va che in casa di povera gente, salvo che si tratti di fornir le serve. Son tempi vigliacchi, sono, per dirci, signora, guardate i cotoni stampati di adesso e paragonateli con quelli che portavate voi. Ma già, adesso voi non indossereste di questa roba, lo capisco bene. Bisogna che siano di prima qualità le stoffe che voi comprate. Roba che si conservi bene, come le vostre fattezze. Eh sì. Di una qualità migliore di tutto quel che potete vender voi. Di prima qualità, voi non avete che la sfacciataggine, lo giurerei, disse Mrs. Glegg con un trionfante sentimento della propria insuperabile sagacia. Mr. Glegg, volete finalmente sedervi a prendere il vostro tè? Tom, ce n'è qui una tazza anche per voi. Avete perfettamente ragione, madama, disse Bob. Il fagotto non è per le persone come voi. Sono passati quei tempi che si trovavano degli affari a buon mercato. Qualche piccola falla qua e là che si può portar via. E una volta messa indosso il vestito, più nessuno la vede. Ma non è il caso di offrire di questa roba alla gente ricca che può pagare l'apparenza, anche nelle cose che nessuno vede. Non sono tipo da proporvi di aprire il mio fagotto per voi, madama. No, no. Sarò uno sfacciato, come dite voi. Sono i tempi che rendono la gente sfacciata. Ma non arrivo ancora a questo punto. Beh, ma che razza di mercanzia portate nel vostro fagotto? Disse Mrs. Glegg. Cose dai colori vistosi, suppongo. Scialli e roba del genere? D'ogni sorta, signora, d'ogni sorta, disse Bob, picchiando sull'involto. Ah, non ne parliamo neppure, per piacere. Io sono qui per gli affari di Mr. Tom e non sono uomo da fargli perdere il tempo per i miei. E quale sarebbe di grazia quest'affare di cui io debbo essere tenuta all'oscuro? Disse Mrs. Glegg, che, solleticata da una doppia curiosità, era costretta a lasciarne una in disparte. Oh, un piccolo progetto del nipote Tom, disse quel valentuomo di Mr. Glegg, e non del tutto malvagio, credo, un progetto per guadagnare quattrini, che poi è il miglior genere di progetti per i giovanotti che debbono far fortuna. È vero, Jane? Ma spero che non sia un progetto in cui si aspetti che i suoi parenti debbano fargli tutta la pappa, eh? Questo è ciò che pensano in generale i giovanotti del giorno d'oggi. E che ha da vedere di grazia questo merciaiuolo con gli affari della nostra famiglia? Non siete capaci di parlare per conto vostro, Tom, e dir tutto a vostra zia come deve fare un nipote per bene? Questo è Bob Jakin, zia, disse Tom, contenendo l'irritazione che la voce di zia Glegg sempre gli produceva. L'ho conosciuto fin da quando eravamo ragazzini, è un ottimo figliuolo, è sempre pronto a farmi dei piaceri. Si è fatto un po' di esperienza nell'esportare mercanzie, una piccola parte del carico di una nave come speculazione privata. E ritiene che se io potessi cominciare a fare qualche cosa del genere, riuscirei a guadagnare un po' più di denari. Su questi affari ci sono larghi margini. Larghi margini? Disse zia Glegg con vivacità. E cosa intendete per larghi margini? Il 10 o il 12%, dice Bob, una volta coperte tutte le spese. E allora perché finora non mi si è mai messa al corrente di queste cose, Mr. Glegg? Disse Mrs. Glegg volgendosi al marito con un tono di rimprovero molto tagliente. Non mi avevate sempre detto che è impossibile di prendere più di un 5%? Bah, bah, questo non ha senso, cara la mia donna, disse Mr. Glegg. Non vorrete mica mettervi in commercio, vero? Da impieghi sicuri non si può ricavare più del 5%. Signora, io potrei investire un po' di denaro per conto vostro, che sarebbe il benvenuto, disse Bob. Se avete voglia di rischiarlo. Ammesso che si possa parlare di rischio, ma se avete intenzione di imprestare qualcosa a Mr. Tom, lui vi può dare il 6 o il 7% e cavarne ugualmente qualche bagatella per sé. E una buona signora come voi impiega con più piacere il proprio denaro quando suo nipote può avere una parte dell'utile. Cosa ne dite, Mrs. Glegg? Disse Mr. Glegg. Io sono d'idea che una volta assunte un po' più di informazioni, potrei instradare Tom dandogli un piccolo spunto iniziale. Lui mi pagherà gli interessi, si capisce. E se voi avete qualche piccola somma nascosta in fondo ad una calza o okay? Mr. Glegg, questo passa la facezia! Andate senz'altro a mettere al corrente i vagabondi che possono venire a derubarmi! Bene, bene. Come dicevo, se avete voglia di mettervi con me per una ventina di sterline, potete farlo. Io le porterò a 50. Questo è un discreto spunto, Tom? Spero che non conterete su di me, Mr. Glegg, gli disse la moglie. Col mio denaro voi fareste delle gran belle cose, non ne dubito. Benone, disse Mr. Glegg alquanto brusco, allora faremo senza di voi. Verrò con voi a vedere questo Salt, soggiunse volgendosi verso Bob. Adesso mi pare che stiate correndo all'altro estremo, Mr. Glegg, disse Mrs. Glegg, e abbiate voglia di lasciarmi fuori dagli affari di mio nipote. Non ho mai detto di non volerci mettere del denaro. Non so se saranno proprio 20 sterline, per quanto voi siate così pronto ad offrirle per conto mio. Ma un giorno o l'altro lui si accorgerà che sua zia aveva ragione di non rischiare il denaro risparmiato per lui senza prima avere la certezza che esso non andasse perduto. Sarebbe una bella maniera di rischiare quella lì, disse Mr. Glegg, strizzando sconsigliatamente l'occhio a Tom che non poté trattenersi dal sorridere. Ma Bob prevenne lo sfogo dell'offesa signora. Signora, disse con ammirazione, voi sapete le cose come sono, voi, nulla di più giusto. Voi volete vedere come una speculazione risponda al primo inizio e poi andate giù sul velluto, perbacco. Gran bella cosa di avere dei buoni parenti. Il mio spunto, come dice il padrone, io l'ho avuto solo dalla mia bravura. 10 sovrane in tutto per aver spento l'incendio al mulino di Torri. E poi la cosa è ingrossata, via via, finché adesso ho qualche cosa come 30 sterline liquide, senza contare che ho messo a posto mia madre. E potrei averne di più se non fossi così debole con le donne. Ma è più forte di me, bisogna che io le lasci fare dei buoni affari. Eccovi questo fagotto, picchiandovi sopra gagliardamente. Chiunque altro ne tirerebbe fuori un bel gruzzolo, ma io, accidenti, io lo darò pressappoco per quel che l'ho pagato. Ce l'avreste lì un poco di buon tulle? Disse Mrs. Glegg in tono di protezione, alzandosi dalla tavola da tè e piegando il suo tovagliolo. Madama, niente che possiate giudicare degno di un vostro sguardo. Mi vergognerei di presentarvelo, sarebbe un'offesa per voi. Oh, ma lasciatemi vedere, disse Mrs. Glegg, sempre in tono di protezione. Anche se è merce fallita, può sempre ancora essere di qualità abbastanza buona. No, no, no, madama, so dove mi trovo, disse Bob, sollevando il suo involto e caricandoselo sulle spalle. Non sottoporrò certamente la mediocrità delle mie mercanzie a una dama come voi. I merciaiuoli sono decaduti, vi si spezzerebbe il cuore a vedere la differenza. Ai vostri ordini, signore, quando abbiate intenzione di andare a trovare Salt. Ogni cosa a suo tempo, disse Mr. Glegg, che in realtà non aveva nessuna voglia di troncare quel dialogo. Siete atteso ai magazzini, Tom? No, signore, ho lasciato Stowe al mio posto. Su, via, mettete giù il fagotto e lasciatemi vedere, disse Mrs. Glegg, tirando una sedia presso la finestra e accomodandosi con molta dignità. Non me lo chiedete, madama, disse Bob supplichevole. Basta con le chiacchiere, disse Mrs. Glegg severamente. Fate quello che vi dico. Madama, proprio mi ripugna. Ecco, disse Bob, deponendo lentamente il suo fagotto su un gradino e cominciando a slegarlo con dita svogliate. Ma farò come voi comandate, con tutto un rovistare nelle pause tra frase e frase. Certo che da me non comprerete neppure la più piccola cosa. Mi dispiacerebbe per voi se lo faceste. Pensate un po' a quelle povere donne dei villaggi che non si allontanano mai di 100 passi da casa loro. Sarebbe peccato che qualcuno gli portasse via i buoni acquisti. Per Diana, è come andare a nozze per loro quando mi vedono arrivare col mio fagotto e io non troverò mai più per quelle donne delle merci convenienti come queste. Dopotutto, ora non avrei nemmeno il tempo perché devo partire per Laysham. Guardate qui, ecco. Continuò Bob, tornando a farsi più lesto e tirando fuori un fazzoletto di lana rossa con una ghirlanda ricamata nell'angolo. Questa è una cosa da far venire l'acquolina in bocca alle ragazze per 2 soli scellini. E perché? Diamine, perché c'è un piccolo buchino di tignola qui a questa estremità dove non c'è ricamo. Dio buono, credo che le tignole e le macchie di umido siano state mandate dalla provvidenza apposta per far calare un poco il prezzo delle merci per le belle donne che non hanno tanti quattrini. Se non fosse per via delle tignole, ecco, tutti i fazzoletti che vedete addosso a loro sarebbero invece andati alle belle signore ricche come voi, madama, a 5 scellini l'uno, non un quattrino di meno. Ma che cosa fa la tignola? Ecco, in men che non si dica, si rode per 3 scellini di prezzo. E allora un merciaiuolo come me può portare questa roba alle povere ragazze che vivono in una capanna oscura e dar loro un po' di gioia. Perdinci, questo fazzoletto a guardarlo è bello come un fuoco. Bob lo teneva a distanza per farlo ammirare, ma Mrs. Glegg disse asciutta: Sì, ma nessuno ha bisogno di fuoco in questa stagione. Mettete via queste cose a colori. Fatemi vedere il vostro tulle, se ne avete. Madama, ve l'ho detto come andava a finire, disse Bob, gettando da una parte quelle cose a colori con un'aria di disperazione. Lo sapevo che vi avrebbe contrariato di vedere degli articoli miserabili come quelli che porto io. Ecco qui un pezzo di mussolina stampata. Ma cosa serve a voi vederla? Sarebbe come guardare i cibi della povera gente, madama. Non farebbe che togliervi l'appetito. Qui nel mezzo ce n'è una yarda con tutto il disegno sbarrato. Perbacco, questa è una mussolina che l'avrebbe potuta portare la principessa Vittoria, ma soggiunse Bob gettandola per terra dietro di sé come per salvaguardare gli occhi di Mrs. Glegg. Questa se la porterà via la moglie del rigattiere di Phibbs Hand. È là che io vado. 10 scellini per tutto il pezzo. 10 yard, contando la parte avariata. Il suo prezzo sarebbe stato 25 scellini, non un penny di meno. Ma non voglio più parlarvene, madama, non fa per voi un pezzo di mussolina come questo. Voi avete mezzo di pagare 3 volte tanto una cosa che non vale neppure la metà. Ma mi parlavate di maglieria? Bene, ho qui un capo che andrà bene per mettervi in allegria. Datemi quella mussolina, disse Mrs. Glegg. È color camoscio? Ho un debole per il color camoscio. Ma è una cosa variata, disse Bob, con un tono di supplichevole disgusto. Voi non ne fareste nulla, madama, la regalereste alla cuoca, lo so benissimo. E sarebbe un peccato, starebbe meglio su una signora, non è adatta per le serve. Portatela qui e fatemi vedere come la misurate, disse Mrs. Glegg autoritaria. Bob obbedì con ostentata riluttanza. Vedete quanta ce n'è più della misura? Disse quello sporgendo la mezza iarda che cresceva, mentre Mrs. Glegg era occupata a esaminare la iarda avariata e arrovesciava indietro la testa per vedere fino a che punto il difetto scompariva guardando a distanza. Ve ne darò 6 scellini, disse buttandola per terra con l'aria di chi intima un ultimatum. Non ve lo dicevo proprio adesso, madama, che a guardare il mio fagotto vi si sarebbero urtati i nervi? Questo pezzo avariato vi ha dato di volta allo stomaco, lo vedo benissimo, disse Bob, piegando la mussolina con la massima rapidità, come fosse sul punto di affardellare il proprio involto. Voi eravate abituata a vedere dei merciaiuoli che vi portavano un altro genere di articoli quando abitavate nel palazzo di pietra. La mercanzia a questo mondo è decaduta, ve l'ho già detto. La mia roba è per gente volgare. Mrs. Pepper mi darà 10 scellini di questa mussolina e le dispiacerà che io non le abbia chiesto di più. Articoli simili rendono a portarli, conservano il colore finché i fili si sono sciolti nella vasca del bucato, cosa che non succederà per tutto il tempo che io sarò ancora giovane. Bene, 7 scellini, disse Mrs. Glegg. Toglietevelo dalla testa, madama, per piacere, disse Bob. Ecco qui un pezzo di tulle, allora, se volete guardarlo, prima che io leghi il mio fagotto, tanto perché vediate a che punto è arrivato il mio commercio. Puntini e chiodetti, vedete? Bello, ma giallo, è stato tenuto in disparte e ha preso un brutto colore. Io non avrei mai potuto comprare un tulle come questo se non si fosse ingiallito. Vi so dire che ce n'è voluto perché io arrivassi a capire il valore di simili articoli, eh? Quando ho cominciato a fare il merciaiuolo ero ignorante come un porco. Tulle o seta per me erano la stessa cosa. Credevo che le cose tanto più valessero quanto più erano spesse. Sono stato messo nel sacco che fa paura, perché io sono un tipo onesto e senza malizia, madama. Posso soltanto dire che il mio naso è il mio, perché se volessi andare più in là, in un amen, sarei perduto. 5 scellini e 18 ho dato per questo pezzo di tulle. Se vi dicessi di più, vi racconterei una fandonia. E 5 scellini e 18 chiederò, non un penny di più, perché questo è un articolo per signora e a me piace di servire le signore. 5 e 18 per 6 yard, non si paga nemmeno la polvere che c'è sopra. Non mi dispiacerebbe di prenderne 3 yard, disse Mrs. Glegg. Ma se non c'è che 6 in tutto, disse Bob. No, no, madama, questo non è degno di voi. Voi potete andare domani al negozio e trovare la stessa qualità, ma bella bianca. Non vi costerà che 3 volte tanto. Cos'è per una signora come voi? E diede un'eloquente legata al suo involto. Su, su, mettetemi fuori quella mussolina, disse Mrs. Glegg. Qui ci sono 8 scellini. Voi volete scherzare, madama, disse Bob, alzando una faccia ridente. L'ho subito visto che eravate una signora scherzosa, appena sono venuto verso la finestra. Bene, tiratemela fuori, disse Mrs. Glegg perentoria. Ma se ve la lascio per 10 scellini, madama, voi sarete così gentile da non dirlo con nessuno? Mi si prenderebbe in giro. I commercianti mi griderebbero dietro se lo sapessero. Sono costretto a far credere che per le mie merci chiedo di più di quello che chiedo, altrimenti troverebbero che sono uno scemo. Sono contento che non insistiate per comprare il tulle, perché altrimenti perderei i 2 migliori affari per Mrs. Peppers di Phibbs Hand, ed è una cliente straordinaria. Lasciatemi vedere un'altra volta il tulle, disse Mrs. Glegg, sospirando per i puntini e i chiodetti a buon mercato, ora che si stavano scomparendo. Ebbene, a voi non posso dir di no, madama, fece Bob dandole il tulle. Guardate un po' che disegno, vera roba di Laceham. Ecco, è proprio il genere di articoli che io sto consigliando a Mr. Tom di mandare all'estero. Per Dinci è un ottimo affare per chiunque abbia un po' di denaro. Queste mercanzie di Laceham farebbero venire sui quattrini come i funghi se io fossi una signora con un po' di soldi. Ecco, io ne conosco una che ha impiegato 30 sterline in queste mercanzie, una donna con una gamba di legno, ma svelta della quarta. Una che non la coglierete mai a cacciare la testa nel sacco. Quella vuole aver visto chiara tutta la sua strada prima di aver premura di fare un passo. Ebbene, ha dato 30 sterline a un giovanotto che lavorava in tessuti e lui gliele ha impiegate in mercanzie di Laceham. E un commissario di mia conoscenza, non Salt, le ha imbarcate. E così lei ha avuto il suo 8% al primo colpo ed ora non si può più tenerla, che vuole mandare via dei carichi con tutti i bastimenti finché sarà ricca come un ebreo. Si chiama Bax. Non sta in questa città. E ora, madama, se volete avere la cortesia di restituirmi il tulle. Qui ci sono 15 scellini, ecco, per il tulle e la mussolina, disse Mrs. Glegg, ma è un prezzo vergognoso. Oh, no, madama, non direte più così quando fra 5 anni in chiesa ci starete ancora inginocchiata sopra. Ve l'ho regalata, questa roba, in verità. Questi 8 pence mi sbarbano via il guadagno, netto come un rasoio. E ora, signor mio, continuò Bob caricandosi l'involto sulle spalle. Se credete, sarei contento di andare a vedere di far qualcosa per la fortuna di Mr. Tom. Ne avessi altre 20 di sterline da rischiare per conto mio, che non starei a recitare il catechismo prima di decidere cosa farne. Un momento, Mr. Glegg, disse la signora mentre il marito prendeva il cappello. Voi non mi lasciate mai la possibilità di parlare. Ora ve ne andate e concluderete questo affare per poi tornarvene a casa a dirmi che è troppo tardi per parlarne, come se io non fossi la zia di mio nipote e la maggiore della famiglia da parte di sua madre, e non avessi messo da parte delle belle guinee, tutte di buon peso per lui, che saprà ben lui a chi dovrà portare rispetto quando io sarò sottoterra. Bene, Mrs. Glegg, dite quel che volete, fece Mr. Glegg con impazienza. Ebbene. Allora io desidero che non si faccia niente senza che io lo sappia. Non dico che 20 sterline non ce le rischierei quando voi abbiate stabilito che tutto è sicuro in regola. E se lo farò, Tom, concluse Mrs. Glegg volgendosi al nipote con intenzione, spero che lo terrete sempre a mente e ringrazierete di avere una zia simile. Gli interessi voglio che me li paghiate, si capisce? Non approvo il sistema di regalare. Noi di famiglia non siamo mai stati di quest'idea. Grazie, zia, disse Tom, quasi con fierezza. Preferisco che il denaro mi sia soltanto dato in prestito. Benissimo. Questa è la mentalità dei Dodson, disse Mrs. Glegg, alzandosi per prendere il suo lavoro di maglia, con la sensazione che ogni ulteriore commento sarebbe stato ormai ridicolo. Scovato Salt, l'eminente testa quadra tra una nuvola di fumo alla taverna dell'Ancora, Mr. Glegg iniziò delle indagini che risultarono abbastanza soddisfacenti per garantire l'anticipo dello spunto iniziale a cui zia Glegg contribuì per 20 sterline. E in questi inizi modesti voi troverete la ragione di un fatto che potrebbe altrimenti sorprendervi, cioè l'esistenza di una somma accumulata da Tom all'insaputa del padre, la quale in non molto tempo cominciò a promettere di accelerare il troppo lento ritmo dei risparmi e di coprire interamente il deficit. Una volta che la sua attenzione fu rivolta a questa sorgente di guadagno, Tom decise di ritirarne il massimo profitto e non perdette alcuna occasione di ottenere informazioni e di allargare le sue piccole imprese. A non dir nulla al babbo, fu indotto da quella strana mescolanza di sentimenti opposti che spesso conferisce ugual peso alle ragioni di chi biasima un'azione e a quelle di chi l'ammira. Da un lato era l'avversione alla confidenza che si vede spesso tra parenti prossimi, quell'antipatia di famiglia che rovina le più sacre relazioni delle nostre vite. Da un altro lato era il desiderio di sorprendere il padre con una grande gioia, e non si accorgeva che sarebbe stato meglio di alleviargli il tempo dell'attesa con una nuova speranza e di prevenire il turbamento di un'esaltazione troppo repentina. Al tempo del primo incontro di Maggie con Philip, Tom aveva già quasi 150 sterline di capitale in proprio, e mentre quelli, nella luce della sera, stavano passeggiando per i fondi rossi, egli cavalcava nella luce di quella stessa sera verso Leysem, fiero di compiere il suo primo viaggio per conto della Gestenko, e rivolgeva nella mente tutte le possibilità di raddoppiare i propri guadagni entro la fine dell'anno prossimo e cancellare la vergogna dei debiti dal nome di suo padre. E forse avrebbe avuto 21 anni, di trovare per sé un nuovo punto di partenza dalla piattaforma di un impiego più elevato. Non se lo meritava? Egli era perfettamente sicuro di sì. 3. La bilancia oscillante. Ho detto che quella sera, quando Maggie rincasò dai fondi rossi, un intimo conflitto già si era iniziato entro di lei. Avete capito abbastanza chiaramente dal suo colloquio con Philip quale fosse questo conflitto. Ecco che d'improvviso s'era aperta una breccia nella muraglia di pietra che la rinserrava per entro l'angusta valle dell'umiliazione, dove sua sola prospettiva era il cielo lontano e imperscrutabile. Ecco che alcune tra le delizie terrestri che visitavano la sua immaginazione non erano più ormai escluse dalle sue possibilità. Avrebbe potuto avere libri, compagnia, affetto, tenersi in contatto con quel mondo da cui il suo spirito non aveva ancora cessato di sentirsi in esilio. E sarebbe stata anche una buona azione verso Philip, che faceva tanta pena, che era evidentemente infelice. Ecco che forse le si presentava l'occasione di rendere il proprio spirito più degno dei suoi compiti superiori. Forse neppure la più nobile, la più completa devozione può sussistere senza una certa larghezza intellettuale. Doveva ella vivere per sempre in questa prigionia rassegnata? Un'amicizia tra lei e Philip sarebbe stata cosa così innocente, così buona. I motivi che la vietavano erano così irragionevoli, così poco cristiani. Ma il severo, monotono ammonimento sempre tornava ad insistere che, ammettendo dei motivi di dissimulazione, ella avrebbe perduto l'ingenuità e la chiarezza della propria vita, e che, abbandonando la diritta regola della rinuncia, stava mettendosi sotto l'impero seducente e insaziabile dei desideri. Credeva ad essersi conquistata la forza di ottemperare a quell'ammonimento finché la settimana seguente si concesse una sera di dirigere i propri passi ai fondi rossi. Ma, pur avendo stabilito di dare a Philip un affettuoso addio, quanto pregustava quella passeggiata serale nella tranquilla amarezzata ombra delle vallette, lungi da tutto ciò che era aspro e inamabile, quegli sguardi affettuosi e ammirati che l'avrebbero accolta, quel senso di amicizia che le memorie infantili avrebbero infuso in una più saggia e matura conversazione, la certezza che Philip si sarebbe fatto premura di ascoltare tutto ciò che ella diceva e di cui nessun altro si interessava. Era una mezz'ora a cui le sarebbe stato molto difficile di rifiutarsi, sapendo che non ne avrebbe mai più avute altre, e tuttavia disse ciò che si era proposta di dire, e aveva un aspetto fermo quanto triste. Philip, ho preso la mia decisione, è opportuno che rinunciamo l'uno all'altra, in tutto fuorché nel ricordo. Io non potrei vedervi se non di nascosto. Tacete, so quello che volete dire. È la volgarità dei sentimenti altrui che rende necessario il segreto, ma nascondersi è male, qualunque ne sia la causa. Sento che sarebbe male per me, per tutti e due. E poi, se il nostro segreto fosse scoperto, non ne verrebbero che pene e ire spaventose, e allora dovremmo separarci in ogni modo, e sarebbe più difficile quando avessimo l'abitudine di vederci. Il volto di Philip si era acceso. Per un momento egli ebbe un'espressione concitata, come se si accingesse a resistere con tutte le sue forze contro quella decisione. Ma si controllò e disse con calma fittizia: «Bene, Maggie, se dobbiamo separarci, cerchiamo di dimenticarcene per mezz'ora. Parliamoci un poco per l'ultima volta».